Letture di Radio 24. La rete non è soltanto preda di hacker, maghi della truffa o edonisti mai cresciuti stile Assange o Snowden, ma anche di guardoni tecnologici in grado di approfittare di ogni falla di un sistema dove la crescente riduzione della privacy è il prezzo da pagare per un accesso più facile alle informazioni. Al di là delle dichiarazioni rassicuranti da parte degli operatori, la recente diffusione di scatti osè rubati alle dive di Hollywood rende evidente come la vulnerabilità dei sistemi obblighi gli utenti a un minimo di attenzione. Perché oggi anche solo fotografarsi davanti allo specchio può diventare pericoloso, come commenta Elena Stancanelli in un editoriale pubblicato sulla Repubblica. I cofanetti di caramelle, quelli fatti come il forziere del tesoro, e i diari, avevano le stesse chiavette, di latta, minuscole. Le portavamo al collo per maggiore sicurezza. Chiudevamo le nostre lettere nel forziere, i nostri segreti nel diario, e poi mettevamo tutto quanto al sicuro con dei lucchetti che potevano essere forzati con uno stuzzicadenti. Certo che era un gioco. Certo che una parte dell'eccitazione consisteva nel fatto che sapevamo di correre un enorme rischio. Era bello figurarsi le facce dei nostri genitori, dei fidanzati, dell'amica del cuore, all'improvviso rivelarsi dei nostri più luridi e mal riposti segreti. Ma era prima di internet, quando ancora si poteva scherzare, quando le uniche cose che avevano conseguenze erano i fatti. Adesso le nostre vite sono in pericolo non tanto per quello che facciamo, ma per come cazzeggiamo. Lo sanno bene i politici. Fa più danni un selfie stupido che portare un paese allegramente in deflazione. La rete è un moltiplicatore infinito, oltre che il luogo dove tutto si conserva. I nostri nipoti potranno eccitarsi davanti al culo della bisnonna di uno che nel 2014 aveva postato la foto della fidanzata per vendicarsi di un tradimento. La rete è democratica. Nei giorni scorsi qualche demente ha hackerato l'account di Jennifer Lawrence. Domani potrebbe toccare alla tua vicina di casa che lavora da Ocean. E non è detto che in quel caso farebbe meno danni. Vale sempre la stessa avvertenza. Prima di fotografarti senza mutande davanti allo specchio del bagno, pensa sempre che un giorno potresti uscire di casa e trovarti una gigantografia appesa sul muro del palazzo di fronte al tuo, con tanti saluti da parte dell'ultima persona che hai fatto arrabbiare. Avete ascoltato la lettura dell'editoriale di Elena Stancanelli Nell'era del web anche lo specchio è pericoloso, dalla Repubblica del 2 settembre. Letture di Radio 24. Come si possono fermare i massacri di cristiani in Siria e Iraq? Per Edward Luttwak, economista e politologo americano, è importante fermare il doppio gioco di paesi come Qatar e Turchia, che dialogano con l'Occidente, ma continuano a sostenere gli estremisti. È necessaria anzitutto un'operazione verità sull'Islam e la comunità islamica. Per i musulmani sunniti, trucidare i yazidi o altri pagani che rifiutano la conversione, rimuovere i crocifissi arroganti delle chiese, trasformandole in moschee, decapitare apostati come gli alawiti che governano la Siria, può risultare non molto gentile, ma del tutto legale per i dettami islamici. Le bandiere nere del califfato, che sono apparse anche a Berlino, Parigi e Londra, raffigurano cartine di un mondo islamico che include la Spagna e buona parte dell'India, così come Israele. È la legge islamica a prescrivere che qualunque territorio un tempo dominato dai musulmani è una promessa sacra e mai potrà essere ceduto a non musulmani. L'apostasia è reato in 23 paesi musulmani ed è costata la vita a molte persone decapitate in Iran e in Arabia Saudita. In Turchia l'apostasia dell'Islam è ammessa, ma solo grazie alla Costituzione che gli attuali leader vogliono smantellare pezzo a pezzo. Il neopresidente turco Recep Tayyip Erdogan e il primo ministro designato Ahmet Davutoğlu definiscono la comunità del siriano Assad Nusairi, dispregiativo sunnita per dire alawita. Il cosiddetto califfato e i suoi metodi appaiono a noi estremi e brutali, ma lo sono assai meno agli occhi della comunità sunnita a cui si rivolgono, la stessa che ha votato con entusiasmo Erdogan proprio per i suoi violenti slogan islamisti. Non c'è perciò da stupirsi della potenza attrattiva esercitata dall'ISIS su migliaia di volontari provenienti dall'Europa occidentale. Per loro si tratta di praticare l'Islam che hanno appreso nelle scuole e nelle moschee. L'altro Islam, la religione della pace spesso invocata nei discorsi pubblici dal presidente Obama, è una visione minoritaria, priva di legittimazione islamica, i cui fautori sono bistrattati e sospettati di essere burattini di governi stranieri. Di recente alcuni predicatori moderati sono stati assassinati in Russia e in Cina. Il vero Islam non lo rappresentano i simpatici imam del dialogo interreligioso che pranzano con Obama e Cameron, ma i jihadisti attivi nelle Filippine, in Nigeria, Thailandia, Iraq, Pakistan, India, nella striscia di Gaza. Il fronte di Abu Bakr al-Baghdadi si distingue solo perché mostra le decapitazioni su YouTube allo scopo di attrarre reclute. Che fare? Occorre anzitutto fermare il doppio gioco di Qatar e Turchia, che sostengono gli estremisti. È assurdo che la Turchia rimanga nella NATO e che Qatar Airlines continui ad atterrare in Europa. Bisogna sostenere gli unici alleati affidabili dell'Occidente, Giordania, curdi e Israele. In terzo luogo, visto che non c'è possibilità di occupare l'area via terra, bisogna massimizzare gli attacchi aerei. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Eduard Luttwak, Basta con i paesi doppio giochisti, da Panorama del 3 settembre. Nel numero successivo di Panorama, all'interno di un lungo speciale dedicato a quelle che vengono definite invasioni barbariche, Vittorio Emanuele Parsi, ordinario di relazioni internazionali all'Università Cattolica di Milano, spiega che di fronte a questa aggressione da parte di un mondo premoderno, che utilizza però strumenti postmoderni, è importante che l'Occidente offra il proprio sostegno, anche militare, alle leadership con cui si vuole dialogare. Può l'Occidente sconfiggere lo Stato islamico in nome e per conto delle società mediorientali? La risposta è no. Lo abbiamo visto nella fase iniziale delle primavere arabe, quando il sorgere di movimenti spontanei in grado di offrire forme di lotta politica di successo e alternative alla violenza jihadista emarginò Al-Qaeda e i suoi emuli dal discorso politico arabo. E non è certo casuale che lo Stato islamico sia venuto alla ribalta quando la primavera siriana si è trasformata in una sanguinosa guerra civile. Può l'Occidente disinteressarsi di tale emergenza e lasciare alle società del Medio Oriente l'intero onere della lotta? Anche qui la risposta è no, perché il cancro dello Stato islamico è la più grave minaccia portata alla nostra sicurezza dall'11 settembre 2001, parola del presidente Barack Obama. Ma anche perché senza un deciso contributo militare, il califfato vincerà e nessuno potrà poi riuscire a sconfiggerlo. Ciò che dobbiamo ai nostri vicini sono azioni responsabili e coraggiose. Sostegno militare, non solo indiretto, apertura di credito politico verso le leadership con cui scegliamo di interloquire, sostegno agli embrioni di società civile che lottano per il progresso dei loro paesi. Ciò che dobbiamo ai nostri concittadini sono azioni concrete a favore della comune sicurezza, senza discorsi che alimentino il panico, ma anche rifuggendo l'ostentazione autogratificante di buoni sentimenti, gli spontaneismi improvvisati e dilettanteschi che poi finiscono nel costare all'erario e a tutti noi milioni di euro, oltre che finanziare il terrorismo e alimentare la pessima reputazione di cui godiamo in materia di ostaggi, e intensificare le operazioni di identificazione e controllo per chiunque approdi in Italia sprovvisto di autorizzazione. È corretto affermare che nell'immediato il recupero di centinaia di migliaia di migranti al largo delle coste libiche non costituisce di per sé un incremento della minaccia terroristica. Ma negare che tra tanti disperati potrebbero infiltrarsi jihadisti in grado di organizzare atti ostili nell'arco di alcuni mesi è irresponsabile, così come non è possibile escludere completamente la possibilità di uno sbarco di jihadisti allo scopo di compiere un'azione suicida dimostrativa. In una nota a margine del suo articolo, Parsi ironizza sulla decisione da parte dell'Ordine Nazionale dei Giornalisti di sottoporre a procedimento disciplinare Mahdi Alam, accusato di islamofobia. Ma perché? Perché l'Ordine Nazionale dei Giornalisti deve farsi notare per una follia come il procedimento disciplinare a carico di Mahdi Alam? Sarebbe responsabile di islamofobia avendo scritto nel 2011 su Il Giornale alcuni articoli critici verso la religione musulmana e su quanto avviene nelle moschee. L'Ordine Regionale del Lazio, alla fine del 2013, aveva con intelligenza archiviato l'esposto dell'associazione Media e Diritto, secondo la quale Alam avrebbe violato la Costituzione e la Carta dei Doveri del Giornalista. Ma il successivo ricorso all'Ordine Nazionale è stato accolto e ora Alam sarà sottoposto a procedimento disciplinare. Ma i giornalisti, anche quelli dell'Ordine, non dovrebbero pensare a trovare notizie. E quelli che avete ascoltato erano alcuni passaggi dell'articolo di Vittorio Emanuele Parsi «La guerra del nuovo Medioevo. Perché abbiamo il dovere di reagire?» da Panorama del 10 settembre. L'affido familiare rappresenta spesso l'unica soluzione per creare un ponte tra le migliaia di bambini che attendono di essere adottati e le famiglie che si rendono disponibili, ma che sempre più spesso rinunciano ad ogni tentativo, vinte dagli ostacoli burocratici e politici e dall'indifferenza delle istituzioni. Spesso però il bambino in affido è solo in parcheggio presso i genitori adottivi, che potrebbero vederselo sottrarre in qualunque momento dal Tribunale dei Minori. Lascia perplessi, tuttavia, la contraddizione tra le numerose sentenze ostili a quei genitori che, per evitare ulteriori traumi al bambino, chiedono di prolungare il periodo di affido o di averlo in adozione, e la facilità con cui il Tribunale di Roma ha concesso il diritto di adozione a una coppia di madri omosessuali, come commenta Gian Antonio Stella in un editoriale pubblicato sul Corriere della Sera. È una vittoria dei bambini, hanno detto le due madri omosessuali romane dopo il riconoscimento da parte del Tribunale per i minorenni capitolino del loro diritto all'adozione. Cori di esultanza delle associazioni gay, cori di indignazione della destra. Il tema spacca e possiamo scommettere che continuerà a dividere per mesi, anni, decenni. Sia a chi esulta, sia a chi si indigna, tuttavia, pare esser sfuggito un punto. La contraddizione del Tribunale romano tra la sentenza in favore della coppia omosessuale e altre ostili ai genitori usa e getta, quei padri e quelle madri che accettano di farsi carico, per un certo periodo, di bambini destinati all'adozione e poi se li vedono togliere brutalmente, anche nel caso quei bambini siano ormai così legati alla famiglia affidataria, da subire nel trasloco presso i genitori adottivi un nuovo trauma, a volte gravissimo. Dice infatti il verdetto contestato dai tradizionalisti che in base all'articolo 44 della legge l'adozione può essere concessa in casi particolari nel superiore e preminente interesse del minore a mantenere con l'adulto, in questo caso genitore sociale, quel rapporto affettivo e di convivenza già positivamente consolidatosi nel tempo. Bene, la piccola Anna, il nome ovvio è di fantasia, fu data in affidamento alcuni anni fa insieme a due fratellini di 4 e di 2 anni alla casa famiglia di due coniugi reatini che avevano già 5 figli loro e che da anni offrono la loro ospitalità e la loro esperienza ai giudici minorili quando questi devono parcheggiare un bambino in attesa che torni nella famiglia d'origine o sia dato in adozione. Dicono le norme che questo periodo di affidamento può durare al massimo 24 mesi. Spiega tuttavia la deputata democratica Francesca Puglisi, nel disegno di legge teso a cambiare alcune regole rigidi fino all'ottusità, che i bambini e gli adolescenti in affidamento familiare da oltre 2 anni costituiscono la maggioranza degli accolti, risultando pari a poco meno del 60%, e l'adozione può rivelarsi un nuovo dramma. Capita infatti, non di rado, che un bambino o una bambina già provati da una prima separazione siano sottoposti a una seconda dolorosa frattura e trasferiti a una terza famiglia. Anna, ad esempio. «Quando ce la diedero aveva solo 40 giorni», racconta il padre affidatario. «Noi le abbiamo dato il biberon, noi le abbiamo visto spuntare il primo dentino, le abbiamo insegnato a camminare, parlare, disegnare. Dopo 3 anni e mezzo si sentiva figlia nostra. Non bastasse, aveva problemi di epilessia. Insomma, quando fu il momento di consegnarli alle famiglie adottive, i due fratellini mostrarono di potersi inserire senza problemi. Lei no, tanto che io e mia moglie chiedemmo al giudice di dare la precedenza alla bambina e di lasciarla a noi. Niente da fare. Abbiamo perso in primo grado, in secondo e anche in Cassazione, spiega l'avvocato Lucrezia Mollica, da anni impegnata su questo fronte. Adesso il giudizio spetta a Strasburgo. Il superiore e preminente interesse del minore, in questo caso, non è stato considerato affatto. Sono 3 anni che la nuova legge non riesce ad arrivare in aula per l'approvazione. 3 anni. E intanto chissà quanti bambini sono stati strappati alle famiglie che li avevano cresciuti. E quello che avete ascoltato era l'editoriale di Gian Antonio Stella, Bambini parcheggiati in attesa di adozione, dal Corriere della Sera del 3 settembre.